Bene, Ciao. buonasera a tutte quante, a tutti quanti, e con questa presentazione ripartiamo con il nostro progetto Tutti Saggi, gruppo di lettura di saggistica generale. E ogni mese ci sarà un tema diverso approfondito appunto con letture o eventualmente interventi tipo appunto quello di questa sera, che ha per protagonisti Roberto Sklaunic, e Isabella Fabris e Maria Pia Zanetti, che appunto leggerà al posto dei partecipanti e delle partecipanti che solitamente sono invece coinvolte e coinvolti attivamente. Il prossimo incontro quindi sarà nel mese di ottobre, l'11 per la precisione, e ripartiremo anche con gli incontri legati più alla filosofia pratica, quindi approfondiremo il significato di una parola particolarmente significativa attraverso letture di approfondimento. La parola sarà bellezza e ci aiuterà ad orientarci Fernando Armellini. Il 20 settembre invece ricomincerà anche il gruppo di lettura di narrativa locale, e parleremo di un romanzo che abbiamo letto durante l'estate come compito estivo, ovvero L'eredità di Villa Freiberg di Romina Casagrande. Quindi se avete piacere di partecipare, di ascoltare appunto le impressioni di chi ha fatto questa lettura in autonomia, potete comunque intervenire. La partecipazione è libera e non è vincolante, nel senso che ogni mese si può decidere se è interessante il romanzo di cui si parla oppure no, e intervenire oppure rimandare al mese successivo. Per quanto riguarda le conferenze invece, le presentazioni di libri, la prossima vedrà Carlo Romeo parlare del nuovo saggio dedicato ai classici dimenticati della lettura, letteratura altoatesina in lingua italiana. La moderazione sarà di Andrea Di Michele e le letture questa volta di Alessandra Vimetti. Quindi benvenuti, lascio la parola a Roberto. Prego. Grazie. Buonasera a tutti, benvenuti. Siamo qui per presentarvi questo lavoro a quattro mani di Isabella Fabris, che è qua l'illustratrice, e mio il testo. Un lavoro che abbiamo scelto insieme di dedicare alla poetessa Alda Merini per ricordarla, per ricordare un po' la sua vita travagliata, ma anche tutta la sua forza di donna che ha voluto raccontare non solo attraverso le poesie, ma proprio attraverso la sua esperienza di vita. Ecco. Adesso magari Isabella ci illustra un po' le tavole che ha, come ha costruito le tavole, e la nostra Maria Pia Zanetti legge i testi. Poi alla fine vi racconterò qualcosa della sua vita, di alcune persone che ho incontrato, che l'hanno conosciuta di persona, e poi ci sono, lo spazio è aperto alle domande, insomma, ecco. Grazie. Niente. Ecco, è sempre un piacere, e infatti pensavo oggi, ogni volta che adesso abbiamo fatto qualche incontro in altre biblioteche, ripensare ad Alda. Ed è stato appunto un piacere fare questo lavoro perché l'ho potuta conoscere a fondo. Prima devo dire che non la conoscevo così nel dettaglio, avevo solo qualche immagine di lei in televisione, che era spesso da Maurizio Costanzo Show. Sapevo che era una poetessa, ma non conoscevo tutta la sua vita. E questo lavoro è stato molto bello perché ho dovuto appunto documentarmi e sia come fotografie sia come storia della sua vita. E quindi diciamo che per fare una piccola, questa è una piccola graphic novel, un piccolo libro illustrato della sua vita, si fa un piano delle illustrazioni e si decide quale ha più valore, quale ha più peso, quale ha meno. E ovviamente qui, essendo una biografia, siamo partiti con la sua nascita e appunto, ecco qua. Ho fatto una ricerca iconografica e del periodo della sua infanzia c'era davvero pochissimo. E quindi ho pensato di cercare queste foto classiche che c'erano degli anni 30, di questi bambini che venivano proprio appoggiati sulle coperte con questi sfondi di drappi classici, e le ho dato un volto in base un po' al volto di lei da adulta, no? E ho cominciato a pensare come caratterizzare anche questa immagine, cercando appunto qualche gioco così classico dell'epoca, e poi ho inserito questo l'uccellino, questo cardellino che ha è famoso anche nella storia dell'arte per avere una simbologia della passione, perché con questo quindi si comunica che la sua vita sarà una vita di sofferenza, perché lei appunto sarà segnata da questi ricoveri nei manicomi e soffrirà molto di questa malattia, chiamiamo, ma anche all'epoca venivano le donne venivano internate anche per pochissimo, quando il marito si infuriava, litigavano, chiamava il manicomio, la facevano recuperare. Così è successo un po' anche a lei. Esatto. E dopo lei è rimasta anche tantissimo tempo, è riuscita poi ad avere anche una vita, però è stata segnata da questo, diciamo. E così anche tutta l'immagine della scuola di quegli anni, ho cercato anche le divise, i grembiuli, gli abecedari classici di una volta. E così il cardellino fa ancora una piccola apparizione, i calamai, e piano piano e continuare a lavorare sulla sua fisionomia, cercando appunto, c'era una unica piccolissima foto della classe dove lei era molto piccola e poco nitida e più o meno aveva questa pettinatura, e poi ho cercato di darle appunto la sua fisionomia, che non sappiamo se è proprio quella, ma insomma. Qui appunto è una parte della sua vita dove lei viene sfollata perché Milano era stata bombardata, quindi la famiglia si va a vivere a Vercelli, e qui ho colto un po', ho cercato di illustrare la sua natura molto un po' selvaggia, un po' anche molto determinata e forte, e quindi l'ho immaginata così su un albero con gli amici a piedi scalzi, proprio che voleva vivere la vita a pieno, diciamo, no? E qui una parte della sua, proprio in quel periodo lei inizia anche a studiare pianoforte, che è una parte della sua vita importante perché lei amava molto la musica. E anche qui c'è sempre il cardellino in sottofondo, e qui inizia a crescere, diciamo, una giovane donna, e già è il suo incontro con il Giacinto Spagnoletti, che la aiuterà e la introdurrà nel mondo della poesia, un incontro molto importante. Quindi anche qui ho dovuto immaginarmi un po' uno studio in base a qualche foto, anche di Spagnoletti non c'era molto materiale, nonostante fosse molto conosciuto. E qui iniziamo il suo periodo di problemi, dove inizia ad avere questa confusione, molte pressioni, probabilmente dalla sua situazione familiare, e non si sa cosa l'ha portata ad avere questo blackout, insomma, e ad avere poi bisogno di aiuto. E qui appunto, qui ho sempre lavorato su una pagina di testo, una pagina di illustrazione. Qui ho deciso di fare un'apertura più forte su due pagine con l'illustrazione, proprio perché c'è stato questo momento importante che è stato il ricovero in ospedale. E ho pensato molto a come illustrare questa, perché si può fare in mille modi, solo che ho pensato di, appunto, me la sono immaginata disperata, come può essere la disperazione, proprio a terra e con questa figura del medico molto ai margini, perché diciamo che anche la figura del medico in quel periodo non era così come oggi, di aiuto e di comprensione, ma erano molto duri e molto risolutivi, o usavano solo l'elettroshock. Infatti lei è stata curata con tantissimi elettroshock e pillole, e quindi insomma era più una prigione che un ospedale, insomma. E quindi ho cercato anche come erano i letti, anche questo l'ho messo un po' in sottofondo, però questi letti di ferro bianchi essenziali e questo colore delle piastrelle. E qui facciamo già il salto, perché poi comunque il libretto non è grandissimo, qui siamo già al suo periodo migliore, quando torna sui Navigli a Milano a vivere e ha questa sua casetta, e qui è proprio il suo mondo, il suo studio, dove scrive, e con la scrittura lei rinasce e sta bene. E qui c'è stato proprio molto bello disegnare questa immagine, perché ho messo tutto il suo mondo, dai fiori, tutti i quadri che lei raccoglieva, le foto, le cicche, perché lei fumava tantissimo, questi portacenere pieni di sigarette spente anche a metà, una piccola immagine del Duomo di Milano sotto vetro con la neve, che c'era proprio nelle sue foto, e così insomma il suo mondo, la Coca-Cola, tutti questi gioielli che aveva sempre addosso, era sempre molto ricca di anelli e collane, era una donna molto femminile e per quello molto anche positiva, insomma, nonostante avesse avuto appunto questa vita terribile. A me ha colpito molto questa sua allegria, questa sua positività, insomma. Ecco, e qui anche l'ultima illustrazione, dove lei praticamente negli ultimi periodi della sua vita ha vissuto praticamente quasi sempre a letto, e dal letto faceva queste lunghe telefonate con gli amici a qualsiasi ora del giorno o della notte, e scriveva, si vede sulla parete dietro al letto, scriveva i numeri del telefono col rossetto. Era proprio, diciamo, che era quasi diventata una barbona, nel senso che viveva non proprio nella pulizia, nell'ordine, però era felice così, felice, non so quanto felice, ma insomma così era quello che si vedeva negli ultimi suoi giorni, insomma. Aveva però sempre qualcuno da chiamare al telefono, almeno sì, quello sembra. Sì. Certo. Ecco, questo è più o meno quello che ho pensato. Adesso sentiamo il testo magari della Maria Pia, che ce lo legge. Facciamo tutto un ritorno. Eccoci. Il mio vero nome è molto lungo. Mi chiamo Angela Giuseppina Alda Merini e sono nata a Milano il 21 marzo 1931, a Porta Genova. Mio padre, Nemo Merini, è figlio di un conte Comaschi, ma viene diseredato dalla famiglia per aver sposato mia madre, Emilia Painelli, di origine contadina. Nella mia infanzia ricordo di essere stata una ragazza sensibile, dal carattere malinconico, piuttosto isolata e poco compresa dai genitori. A scuola andavo molto bene, mi piaceva. Lo studio per me era vita. Nel 1943 un bombardamento distrusse la mia casa. Con mia madre e mio fratello fummo costretti a vivere vicino a Vercelli, in un cascinale in campagna. Solo dopo 3 anni raggiungemmo il resto della famiglia, rimasta a Milano in un condominio. Verso i 12 anni iniziai a dedicarmi allo studio del pianoforte, strumento che ho sempre molto amato. Nello stesso periodo provai ad entrare nel liceo Ginnasio Manzoni di Milano. Purtroppo non riuscii a superare la prova di italiano. Una mia insegnante delle scuole medie apprezzò particolarmente le mie doti letterarie, tanto da aiutarmi ad esordire a 15 anni come autrice sotto la guida di Giacinto Spagnoletti, che riuscirà a valorizzare il mio talento. Ma la mia famiglia in questo non mi sosterrà. Un giorno mostrai la recensione di una mia poesia a mio padre. Lui la stracciò dicendo: «Ascoltami, cara, la poesia non ti darà il pane». Nel 1947, a 16 anni, incontrai i primi problemi psichiatrici e fui internata per un mese in una clinica di Milano. Mi venne diagnosticato un disturbo bipolare. Perché continuate a rinchiudermi in manicomio? Che cos'è questo continuo ribollire di pensieri che mi assalgono? Perché le mie figlie vengono date in affido? Dove sei, Dio? Solo dopo molti anni, sulle rive del mio amato naviglio, trovo la serenità a lungo cercata. Scrivo molto e questo mi fa star bene. La casa nel suo disordine è piena di libri, quadri, fotografie. I muri diventano una rubrica su cui scrivere con la penna e il rossetto numeri di telefono e brevi pensieri. Ho la sensazione di durare troppo, di non riuscire a spegnermi. Come tutti i vecchi, le mie radici stentano a mollare la terra. Ma del resto dico spesso a tutti che quella croce senza giustizia che è stato il mio manicomio non ha fatto che rivelarmi la grande potenza della vita. Ecco. Questo è il nostro lavoro. Grazie a Maria Pia per la lettura. La persona di Alda Merini è una persona più unica che rara. La sua biografia è ricca di tantissime informazioni, ma soprattutto parlando con le persone che l'hanno conosciuta, è possibile veramente avere un quadro più ampio, più ricco di che persona era. Per farvi un esempio, lei era il tipo di donna che quando vinceva un premio e aveva un sacco di soldi, andava per strada e comprava i panini per i barboni che c'erano per strada e li comprava da mangiare alla gente. Morale della favola, nel giro di 2 settimane tutti i soldi che aveva ricevuto per il premio li finiva. Oppure un'altra storia molto bella, un editore ambulante di Milano che ho conosciuto, Giuseppe Angelillo, gli pubblica a lei una serie di volumetti di aforismi e di altre cose. E lui aveva una bancarella vicino al Duomo e lei andava lì vicino al suo banchetto e diceva: venite a prendere i libri da lui e io ve li autografo, no? Per fargli vendere più libri. Aveva una generosità incredibile questa donna, un'attenzione per gli altri. Invitava gente che aveva bisogno a pranzo, li ospitava, ha ospitato un sacco di persone nei Navigli. Pensate che la casa dei Navigli l'aveva pagata 600.000 lire, negli anni 50 si parla. Poi adesso quello che è rimasto della sua casa è stato portato nel museo Alda Merini, che è non molto lontano da dove abitava lei, insomma. È stata ricostruita la camera da letto, cioè il letto, il muro, le scritte, hanno tolto i gessi con le scritte con il rossetto, i cuscini variegati, di colori variegati, tutti i suoi gioielli, i suoi libri e il suo pianoforte a muro che era inseparabile per lei, una passione che inizia fin da giovane e che si porterà dietro per sempre, questa della musica che l'accompagna. Lei, quando si sentiva sola, aveva bisogno di rincuorarsi, si metteva al pianoforte, cantava e lì si ritrovava una sua armonia, un suo benessere. Ecco, un'altra cosa molto bella è per un periodo di circa 2 anni e mezzo, 3 anni, l'editore di Pulcino Elefante andava a trovarla ogni sabato e raccoglieva i suoi aforismi, dai quali poi sono stati tratti dei libri, no? Molto molto carini. E lei ha questa particolarità che è stata invidiata da tantissimi. Lei scriveva di getto, non correggeva mai, non faceva delle bozze delle sue poesie, scriveva di getto oppure dettava, le cose che ha scritto negli ultimi anni le dettava perché faceva fatica a scrivere. Ecco, veniamo un po' al periodo più difficile. Dal 1965 viene internata in manicomio a causa di questa lite con il marito e in quegli anni purtroppo per una questione anche di maschilismo, diciamolo pur senza troppe virgolette, bastava che qualcuno dicesse che la moglie si comportava un po' male, alzava la voce, in ospedale andavano giù pesanti e rinchiudevano le persone con facilità imbottendole di farmaci e chi più ne ha più ne metta. Lei viene ricoverata nel 65 per un periodo di 6 mesi e poi ci saranno delle ricadute negli anni successivi, in tutto il periodo è quasi di una decina d'anni, insomma, ecco, saranno anni molto difficili dove lei si chiuderà in se stessa e smetterà di scrivere. Solo attraverso uno psichiatra che la seguiva, che a un certo punto con un po' di analisi freudiana riesce a entrare un po' nella sua intimità, a capire quali sono i suoi traumi, riesce un po' ad aprirsi. Lui le regala una macchina da scrivere e le dice: tutte le volte che avrai voglia, sai che in questa stanza c'è una macchina da scrivere e potrai riscrivere le tue poesie. E lei ricomincia a scrivere le vecchie poesie che aveva scritto. Allora lui le dice: queste sono le vecchie poesie che hai scritto, adesso iniziane di nuove anche, no? Questo è molto bello, questo momento. In questo libro che si chiama L'altra verità, diario di una diversa, è raccontato proprio il periodo del manicomio. Gli episodi da narrare sarebbero tanti, il libro è un po' romanzato ma neanche troppo. La cosa che colpisce è la delicatezza con cui lei racconta la drammaticità di quegli spazi e di quelle relazioni molto violente con le infermiere, con i medici, l'elettroshock, quando li lavavano, quando li legavano al letto, punture, farmaci a quintali e cose di questo genere. E lei riesce a descrivere tutto questo con un grande bilanciamento, con un grande equilibrio. Questo libro è uscito grazie a Vanni Scheiwiller, che è stato un editore importante di Milano, che le è stato accanto, assieme ad Arturo Schwarz, che ha pubblicato il suo primo libro di poesie nel 54. Il periodo dell'ospedalizzazione per fortuna si conclude. Ah sì, un'altra cosa molto forte da raccontare è che lei durante questo periodo ha avuto 2 figlie in ospedale. Le ha partorite in ospedale, e le ha viste nascere e ha visto anche che se le ha viste togliere. Quindi lei cercava queste bambine, voleva allattarle, ma non c'erano più perché erano state date in affido fin da subito. Immaginate cosa vuol dire per una donna, per una madre, una cosa del genere, insomma, che peso esistenziale può avere. Eppure lei e le sue figlie ha avuto sempre un grande amore nei confronti delle sue figlie, le ha sempre ricordate con grande affetto, pensando che comunque le famiglie che le hanno cresciute le volessero il bene che lei non poteva dargli in quel momento in cui non stava bene. Il marito, con il marito è stata una relazione difficile, il marito era un panettiere, lavorava 10 ore al giorno, poi veniva a casa, andava a giocare le carte, se era tranquillo bene, se no lei doveva starsene lontana perché lui era piuttosto violento, insomma, ecco. Quando muore il marito negli anni Ottanta, lei ha un'altra relazione con un medico poeta pugliese, con i quali si frequenteranno per 5 anni e lei vivrà anche per un periodo in Puglia. Dopodiché se ne tornerà a Milano, sui suoi navigli, dove ricomporrà un po' tutta la sua storia, ecco, troverà la pace tanto cercata in quegli anni di travaglio intensi che l'hanno accompagnata, davanti alla sua scrivania, alla sua macchina da scrivere, con tutti gli amici che venivano a trovarla, che si fermavano lì a dormire, eccetera, ricostruirà un po' la sua vita. In questo periodo arrivano anche premi e riconoscimenti importanti, ma questo non è significativo, secondo me. Una cosa invece molto significativa, pensate che una ragazzina di 16 anni si trova catapultata a frequentare persone del calibro di Manganelli, Quasimodo, Pasolini, Montale, è stata perché hanno riconosciuto fin da subito la forza del suo modo di scrivere e l'energia che c'era dentro le parole che lei esprimeva nei suoi testi, nelle sue poesie. E questo è stato fortissimo, è durato non molto, perché poi ha avuto già i primi problemi di salute, purtroppo, a 16 anni, però questo le ha permesso di entrare ad esempio in una prima antologia, Poeti del Novecento, dove 2 sue poesie sono state messe dentro, successivamente una seconda antologia su indicazione di Montale, anche lì altre poesie sono state inserite, e da lì insomma inizia tutto un percorso di far conoscere il nome di questa giovanissima poetessa al nostro paese. La sua è una storia difficile, lei ha trovato, diciamo, pace e serenità solo nell'ultimo periodo, anche se faceva una vita sregolata, come diceva anche Isabella prima, e una vita sregolata che però lei andava bene, fumava 2 pacchetti di sigarette al giorno, mangiava quando si ricordava di mangiare, andava in giro, si fermava a parlare con le persone sul lungo i navigli. Però è una persona di grande, grande umanità, di grande compagnia, ecco. Questo è quello che mi ha raccontato di prima mano quelli che l'hanno conosciuta e quelli che hanno lavorato con lei. E i suoi testi non abbisognano di grandi commenti, insomma, c'è una forza nelle sue parole incredibile, c'è veramente un peso specifico molto grande, e lei veramente riusciva a vedere attraverso simboli e immagini le parole che fluttuavano, e riusciva a metterle giù sulla carta come pochi sono riusciti in tutto il Novecento a fare, insomma, ecco. Lei sicuramente è la nostra poetessa del Novecento più importante, ce ne sono anche altre, però lei ha fatto la differenza, insomma. Vuoi anche per la vita drammatica, ma il suo modo di scrivere è di un'intensità veramente notevole. Io ho letto, non so se è vero, perché forse che è stata lei educata dal padre, che gli ha regalato il dizionario. Un conte che poi è decaduto perché aveva sposato una contadina e quindi la famiglia lo ha diseredato, però è stato lui appunto a educarla alla cultura, e che lei all'età di 8 anni leggesse e sapesse a memoria tutta la Divina Commedia, che leggeva sul libro con le illustrazioni di Dorè. Quindi a 8 anni, insomma, mi sembra quasi impossibile, però ai tempi forse comunque era una specie di, già di genio letterario. Diciamo. Sì, sì. E poi pensate che non l'hanno messa al liceo proprio per l'esame di italiano. Sì. Questo è un paradosso, ma non è un paradosso perché è una questione di status sociale. per quello non è stata ammessa, non è per l'esame di italiano, questo l'abbiamo capito tutti, però veramente le sue qualità, le sue capacità intellettuali, assieme anche alla sua forza di donna, perché c'è una forza di un femminile incredibile, c'è una forza di una maternità incredibile che esce fuori in continuazione. Ecco, se avete occasione, guardate il sito che hanno fatto le figlie, che hanno dedicato alla mamma, dove un po' si racconta tutta la sua storia, ci sono delle poesie, delle fotografie, e le figlie hanno compreso, insomma, che lei, che per lei loro erano qualcosa di grande, insomma, che aveva desiderato tanto. Difatti, ad esempio, quando lei era in ospedale psichiatrico, molti uomini volevano avere dei rapporti con lei, e lei cercava di spiegare a queste persone, per quello che si poteva spiegare in una situazione così al limite, quanto l'amore fosse un'altra cosa che avere un rapporto, no? Fisico, diciamo. E anche lì è descritto su questo libro con una delicatezza incredibile, questi passaggi lasciano veramente riflettere, insomma, sarebbe un libro da leggere più che mai a scuola, proprio per far riflettere, insomma, e che avremmo bisogno tutti di leggere assolutamente. E niente, io mi fermerei qua, le cose da dire magari sono ancora altre, e se volete fare qualche domanda ben venga, insomma, sia a Isabella che a me, siamo qua volentieri per raccontare ancora qualcosina. Io volevo sapere qualcosa del suo rapporto con la religione, perché sì, avevo letto qualche cosa. È strano. Ecco, lei ha un rapporto, diciamo, con la fede molto molto profondo. Ha scritto un libro dedicato a San Francesco e ha scritto un libro dedicato a Maria, sempre di poesie. È un libro anche dedicato alla croce e al fatto che Gesù fosse stato messo in croce, eccetera. E la sua è una spiritualità, diciamo, esistenziale, ecco, di questo tipo, no? Lei riconosce il sacro nell'umano. E ha cercato proprio attraverso questo di farlo vivificarlo in qualche modo, ecco. Quindi la sua è una spiritualità che è oggettiva, assolutamente oggettiva, pur avendo una vita così travagliata e squilibrata, insomma, piena di contraddizioni e di alti e bassi, insomma, ecco. Però lei era una persona che sentiva questo rapporto con la trascendenza, con il sacro, il transpersonale, insomma, ecco. Però non era credente. Sì. Così, che avevo letto qualcosa di questo tipo. Ecco, se vi fa piacere, adesso la nostra Maria Pia ci legge alcune poesie di Alda Merini, così magari ci salutiamo con queste letture. Sì, ecco, fare una selezione della poesia di Alda Merini è arduo. Io ne avevo scelte alcune che parlano appunto del suo rapporto proprio con la poesia. Io non ho bisogno di denaro. Ho bisogno di sentimenti, di parole scelte sapientemente, di fiori detti pensieri, di rose dette presenze, di sogni che abitino gli alberi, di canzoni che facciano danzare le statue, di stelle che mormorino all'orecchio degli amanti. Ho bisogno di poesia, questa magia che brucia la pesantezza delle parole, che risveglia le emozioni e dà colori nuovi. E poi una a cui sono particolarmente legata, dove lei si rivolge ai giovani. e dice: a tutti i giovani raccomando, aprite i libri con religione, non guardateli superficialmente, perché in essi è racchiuso il coraggio dei nostri padri, e richiudeteli con dignità quando dovete occuparvi di altre cose, ma soprattutto amate i poeti. Essi hanno vangato per voi la terra per tanti anni, non per costruirvi tombe o simulacri, ma altari. Pensate che potete camminare su di noi come su dei grandi tappeti e volare oltre questa triste realtà quotidiana. Vabbè, tante sarebbero quelle da leggere. Faccio leggere due poesie sulla religione. Ah, così. Sì, ne avevo anche io. Sì? No, ma dovrei cercarle. Ecco. Se le hai pronte. Sì, ho trovato il capitoletto sulla religiosità. Se tu avessi visto i miei cieli e le mie religioni e tutti i sarcofagi della mia fede, avresti abbandonato tutto per venire ad abitare con me, povera. Ma poiché l'ambizione è la culla dell'uomo, continuo a morire nel tuo silenzio. O cielo che cerchi in segreto per ogni terra, senza darlo a vedere, come fosse un lago in cui morire, non so che cosa dire al mio unico confessore, che parla di paradisi mai esistiti. E, non so, io concluderei se non ci sono altre domande, oppure io se continuo leggi, a leggere, leggi, ma leggi. Tra due ore siamo ancora qui, allora. Leggi ancora. Una brevissima. Quando senti qualcosa che ti fa vibrare il cuore, non domandarti mai che cosa sia, ma vivilo fino in fondo, perché quel brivido, quella sensazione, si chiama vita. E questo fa capire anche questo suo attaccamento, no? Incredibile, sì, sì. Alla vita, all'esistenza.